Qui conta troppo il vestito, non il contenuto, anche se non è granché. Lascia perdere, le tue chiacchiere mi fanno stare senza lucidità. Se mi devo arrendere io lo farò da solo, ma con molta vanità. Ho fallito tutto e presto, tutto intorno qui brucerà. Quanto mi piacciono le tue lodi, anche se sappiamo che sono finte. La tua competizione porta fastidio e individualità. Queste code davanti ai locali sono troppo finte come risate in TV. Tutti i numeri che mi elenchi non ti daranno la mia obbedienza, perché sono troppi mesi che non ti concedi e poi aspetti il tuo principe in piedi. Io non assomiglio per niente ai personaggi che ami di più. Niente casa in affitto, lavoro in comune, mezzo drink in un bar. Qui. E quindi non può essere diversamente. Tu sei nato qui. E quindi puoi anche gridare, ma nessuno ti sente. Questa mattina la dolce ucchessina più di tanto non mi aiuterà. Qualche volta gli inconvenienti non mi preoccupano fuori misura. La soprassata come neve caduta su di un piatto dove non punti mai. Praticamente fuori luogo quando parli d'amore davanti a un caffè. Tuo bisogno reale l'hai perso per sempre. L'hai perso perché tu sei qui. E quindi non può essere diversamente. Tu sei nato qui. Quindi puoi anche gridare, ma nessuno ti sente. Quindi puoi anche sbraitare, ma nessuno ti sente. Quanto mi piacciono le tue lodi, anche se sappiamo che sono finte. È la tua competizione che mi porta fastidio e individualità.